2024 2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi la nuova puntata del 2 marzo 2013. Io sono Enrico Pagliarini, come del resto dice anche la sigla. C'è Paolo Corleoni oggi in regia. Dovremmo avere una sigla anche per i nostri tecnici settimana dopo settimana, visto che cambiate, non c'è sempre la stessa persona. Iniziamo con una notizia che per addetti ai lavori potrebbe essere una notizia bomba. Per la prima volta il Ministero della Difesa cinese ha ammesso di subire attacchi informatici. O ha raccontato una bugia, oppure è la verità. Allora, secondo Pechino, i siti internet militari hanno subito 144.000 cyberattacchi al mese nel corso del 2012 e, ed è questa la notizia, il 62% di questi hanno avuto origine negli Stati Uniti. Allora, sapete che da tempo Washington accusa la Cina di aver iniziato una sorta di guerra informatica. Il 20 febbraio la società Mandiant, che è uno dei consulenti del Pentagono e dell'amministrazione americana in materia di sicurezza informatica, ha detto qualche cosa in più, qualche dettaglio in più. Allora, che molti di questi attacchi arrivano da un complesso militare di Shanghai dove opera l'unità 61.398, quindi un edificio ben preciso. Questo è il reparto addetto alle operazioni informatiche contro gli Stati Uniti, che è praticamente il corrispondente cinese del Cyber Command, che è stato istituito dal Pentagono nel 2009. Allora, secondo questo rapporto, da quell'edificio sono stati lanciati dal 2006 centinaia di cyberattacchi cinesi che hanno colpito siti internet istituzionali americani e anche i siti delle più importanti aziende energetiche di alta tecnologia americana, sottraendo informazioni e dati a 141 di queste. Quindi in 141 casi c'è stato un furto di proprietà intellettuale, secondo almeno Mandiant. Naturalmente in questo caso la verifica di queste notizie è, se non impossibile, piuttosto complicata. Aggiungo anche che in settimana, nella relazione che i servizi segreti italiani hanno presentato al Parlamento, hanno parlato di cybercrime e hanno detto: il cybercrime, quindi il crimine digitale, rappresenta una minaccia complessa, impalpabile e pervasiva, capace di produrre ricadute peggiori di quelle ipotizzabili a seguito di attacchi convenzionali e di incidere sull'esercizio delle libertà essenziali per il sistema democratico. Parole che andrebbero stampate negli uffici di molte pubbliche amministrazioni e anche in molte aziende, perché è una domanda che ci facciamo settimana dopo settimana, ma alla quale è difficile dare una risposta. Quante sono le aziende italiane che hanno proprietà intellettuale e vengono attaccate, ma addirittura non se ne accorgono? Quindi la loro proprietà intellettuale, i loro progetti, le loro idee, i loro brevetti vengono rubati attraverso le reti digitali? Punto interrogativo. Allora, adesso cambiamo argomento, anche se poi gli argomenti, quando parliamo di mondo digitale, si legano l'uno all'altro. Allora, ricorderete che Google lo scorso anno ha unificato una sessantina di regole di utilizzo dei propri servizi in tema di trattamento di dati personali, quindi parliamo di privacy. In questo modo è più semplice combinare le informazioni per profilare meglio gli utenti, quindi ci sono sicuramente anche vantaggi, sicuramente per l'azienda, ma anche per gli utenti. Allora, queste novità però non sono in regola con le norme europee e le autorità per la protezione dei dati dei 27 Stati membri lanceranno prima dell'estate un'azione repressiva contro Google. Allora, ci siamo fatti una domanda: per quale motivo? Lo abbiamo chiesto ad Antonello Soro, che è il presidente dell'autorità garante dei dati personali, cioè il garante della privacy italiano. Beh, premetto che Google ha sempre dichiarato in via generale di condividere i principi basilari della protezione dati europea, ma in realtà nel corso del tempo è stato accertato che su diversi piani si discosta e non segue l'ordinamento che in qualche modo presiede al trattamento dei dati personali in Europa, in modo particolare non solo per gli aspetti che riguardano l'informativa, la raccolta del consenso e la conservazione dei dati, ma ancora di più per quel processo di ricombinazione di dati personali raccolti in campi più diversi da Google, che non dimentichiamoci è un gigante nell'ambito della rete, che quindi dispone sia di società che trattano dalla posta elettronica fino ai video, al più grande motore di ricerca, e quindi gli utenti consegnano dati personali a Google per le ragioni più svariate. Google li concentra in una gigantesca banca dati nella quale, ricombinandoli, ottiene profili personali, ricostruisce in qualche modo l'identità molto al di là di quello che sarebbero le finalità per cui ogni singolo dato è stato raccolto. E quindi su questo terreno si è aperto già da un po' di tempo, prima una fase di accertamento e poi una fase anche di contestazione. Nell'ottobre scorso, nel corso di una delle periodiche riunioni delle autorità europee di protezione dati, avevamo scritto una lettera unitaria di tutti i garanti europei chiedendo a Google di controdedurre, diciamo, alle nostre osservazioni e di attenersi alle regole che valgono in Europa per i cittadini europei e che valgono per tutte le imprese che si muovono nel campo delle comunicazioni elettroniche che operano in Europa. Google sostanzialmente non ha risposto, si è limitata a fare dei comunicati stampa in cui riafferma sempre la massima disponibilità e il rispetto dei principi che sono al fondamento del nostro ordinamento, ma di fatto, non rispondendo, in qualche modo si sta sottraendo alla nostra indicazione. A questo punto, nei giorni scorsi, abbiamo, in occasione di un nuovo incontro del gruppo dei garanti europei, abbiamo deciso di accentuare questa pressione, nel senso di sentire ancora una volta la disponibilità e le ragioni di Google, ma sostanzialmente di coordinare anche un'azione repressiva che si svilupperà nei modi e secondo le forme che ogni singolo ordinamento nazionale ha su questo terreno, ma in fase di coordinamento, nel senso che lo faremo insieme. Spero e confido nell'interesse generale che questo braccio di ferro non dichiarato, ma di fatto in corso, possa risolversi positivamente, perché non è accettabile che una grande impresa multinazionale che opera in Europa possa giocare su questo terreno in una condizione di asimmetria di vantaggio competitivo rispetto alle imprese europee che pure operano nell'ambito della comunicazione elettronica. E non è giusto che le imprese europee rispettino le nostre regole e un'impresa che non risiede in Europa possa invece fare quello che vuole. Questo aprirebbe una dinamica davvero pericolosa, non solo in questo campo, ma più in generale nel campo della competizione globale fra le imprese di comunicazione elettronica e, devo dire, in generale di tutte le imprese. Certo, perché lei dice un'azienda, se continuasse questo comportamento, potrebbe decidere un'azienda europea di mettere la sede oltre i confini per fare la stessa cosa. Assolutamente così. E questo dà un po' anche il segno di una fase molto delicata in generale del ruolo dell'Unione Europea, che o assume, come in questo caso sembrerebbe stia accadendo, un'attività coordinata e unitaria, non privilegiando l'interesse di essere interlocutore individuale della grande impresa multinazionale, oppure sostanzialmente le imprese europee saranno destinate alla sconfitta. Certo, questo è un aspetto molto importante perché si tratta proprio di competizione globale e internazionale. Forse è bene sempre ricordare che negli ultimi anni i colossi di internet sono diventate fra le più grandi imprese dell'economia globale in assoluto, quindi con capacità di trasformare i dati personali raccolti in una miniera di denaro indicibile. Si dice appunto che i dati personali in questo nuovo mondo del sistema digitale siano il petrolio, il nuovo petrolio, la nuova fonte di ricchezza, e quindi il problema dei dati personali riguarda, per quello che ci riguarda, prima di tutto la nostra libertà, la dignità delle persone, tutto quello che vuole rappresentare l'ordinamento della privacy, ma c'è un altro versante che riguarda più in generale l'economia globale, di cui in ogni caso l'Europa deve farsi carico. Visto che stiamo parlando in questa dinamica che lei ci ha descritto di sostanzialmente una competizione tra aziende americane e aziende del resto del mondo, ma nella nostra prospettiva aziende europee, c'è anche un dialogo in atto tra autorità europee e americane o è difficile questo? È un dialogo che è aperto e che si svolge con una qualche difficoltà, perché l'ordinamento americano riconosce i diritti dei consumatori, noi riconosciamo i diritti fondamentali dei cittadini, quindi abbiamo due punti di partenza non proprio sovrapponibili, però devo anche dire che negli Stati Uniti negli ultimi mesi va crescendo la spinta, che è una spinta oltretutto anche di mercato, perché quando il cittadino comincia ad avere a diffidare di un servizio che viene offerto con poche garanzie di privacy, progressivamente diventa più esigente, quindi credo che sia destinato in un tempo ragionevole ad armonizzarsi questo ordinamento. Non sappiamo cosa accadrà quando il mercato planetario offrirà servizi sempre crescenti da altre parti del pianeta, perché noi ragioniamo sempre nella visione duale Europa-Stati Uniti, c'è un pezzo di mondo che è diventato più grande e più ricco, che potrebbe creare anche su questo terreno delle grandi novità, ma insomma questo è un campo che si muove tutti i giorni e che ogni giorno offre opportunità diverse di misurarci su questo terreno così nuovo e così affascinante anche, perché certo. È una sfida inedita. Senta Presidente, le faccio un'ultima domanda, perché quando parliamo di questi temi spesso gli ascoltatori ci o chiamano o scrivono dicendo Google nel particolare, ma poi in generale tutte queste aziende che offrono servizi gratuiti, mi offre un buon servizio, quindi le mie esigenze sono coperte da questi servizi, e molti ascoltatori dicono che problema c'è nel fatto che io ceda e conceda l'utilizzo dei dati a queste aziende. Ecco, a questa obiezione lei come risponderebbe? Beh, intanto sa, progressivamente nel corso di questi anni, vista la quantità gigantesca di richieste che noi riceviamo, di offerta di servizi che noi riceviamo, e la diffusione e progressione incredibile degli strumenti mobili di connessione, la quantità di dati personali che sono entrati nella disponibilità dei giganti come Google, come Amazon, come i grandi colossi di internet, sono miliardi di dati, e miliardi di cittadini nel mondo oggi sono profilati, perché questi dati vengono raccolti, combinati fra di loro, e progressivamente si va costruendo la identità, come si dice, elettronica di ognuno di noi, e questi dati vanno in un luogo così distante da noi che noi poi non siamo più in grado di controllarli. E nel momento in cui non siamo più in grado di controllarli e questi dati vengono offerti nel mercato, perché una grande azienda che detiene la banca dati in cui sono profilati centinaia di milioni di persone, offre alle imprese nel mondo i nostri dati, ne fa un uso di cui noi non sappiamo nulla, e questi dati possono essere alterati perché non sono più protetti, non sono più nel nostro controllo. E non è detto che la nostra identità elettronica poi corrisponda a quella nostra reale, ci può essere il furto di identità, e con l'identità nostra rubata da qualcuno si può fare un uso che è davvero può essere molto rischioso per tutti noi. E poi ci sono un'infinità di altri aspetti che si connettono con questo, il controllo dei dati personali in qualche modo è il controllo della nostra vita, il giorno in cui noi perdiamo per intero il controllo dei dati personali, di questi dati che abbiamo consegnato a questa dimensione virtuale ma in realtà così concreta, ci esporrà sempre di più a una possibile violazione della nostra esistenza, che oggi sottovalutiamo quando ci limitiamo a dare magari un numero di il nostro codice fiscale piuttosto che il nostro numero di carta di credito o anche solo il nostro indirizzo. Tutti questi dati ricombinati entrano in questo universo e sono accessibili da parte di persone di cui noi niente sappiamo, di imprese di cui noi niente sappiamo, entrano in una combinazione che è davvero molto lontana. Quindi quel sentimento ingenuo di dire: ma che mi importa se io mi offri un servizio? Non me lo offre gratis, perché, come dice Biagio, come ho appena detto, queste aziende sono diventate le più ricche del mondo, ma perché ci commerciano sopra, ma soprattutto mettono a repentaglio, prima o poi possono mettere a repentaglio la nostra esistenza stessa. Era la voce di Antonello Soro, che è il presidente dell'autorità italiana garante per la protezione dei dati personali, quindi il garante per la privacy. Ecco, detto tutto. Sono le 15:46 minuti, questo è 2024, alcune considerazioni anche su queste parole tra un minuto. 2024. Abbiamo parlato dei dati personali che vengono trattati dalle grandi aziende. Siamo partiti da Google, perché l'azione dei garanti europei parte, sta trattando, diciamo, con Google, e hanno minacciato un'azione repressiva nei confronti di Google. Ma diciamo, questi discorsi valgono in generale per tutte le grandi aziende che trattano i nostri dati in rete. Però tutto ciò non ci deve portare all'atteggiamento radicale di chi dice: beh, non fornisco mai i miei dati in rete, non uso la carta di credito, eccetera eccetera. Insomma, significherebbe distaccarsi da un mondo che sta andando in una certa direzione. Bisogna però essere attenti, consapevoli, cioè bisogna conoscere questi temi, bisogna sapere quello che succede in rete, usare quel minimo di prudenza che usiamo poi nel mondo offline, perché nella vita di tutti i giorni, nella vita reale, siamo oramai abituati ad esempio a non dare dati personali primo che capita per strada, e certe cose invece online vengono fatte senza pensarci troppo. Direi che sicuramente, tra le altre cose, Google è la meno pericolosa delle aziende. Quello che preoccupa i garanti probabilmente sono le dimensioni e il numero di profili che Google tratta, perché sono milioni di dati e milioni di persone che sono iscritte a questi servizi. E naturalmente è ben più pericoloso scaricare un'app sconosciuta su Android, e cito Android non a caso, e accettare senza leggere quello che ci viene domandato da questa applicazione. L'applicazione ci chiede spesso: posso fare questo e quest'altro? E molti dicono, senza pensarci troppo, sì sì sì sì, accetto accetto accetto. Allora, per quanto riguarda l'azione delle autorità privacy in Europa, dal punto di vista operativo, le azioni sono state affidate a quella francese, la Commissione Nazionale per l'Informatica e le Libertà, che è molto attiva sul fronte internet. Sempre in tema proprio del trattamento di dati personali, il garante italiano ha chiesto spiegazioni anche a un'altra applicazione che forse molti ascoltatori utilizzeranno, cioè WhatsApp, per sapere quale uso la società, che è una società americana, fa ad esempio dei contatti che vengono prelevati quando si installa l'app sullo smartphone. Ad esempio, ma è uno dei tanti esempi che potremmo fare, che cosa ne è dei numeri di telefono degli utenti che non sono iscritti al servizio? Quando l'app si installa sul mio telefono mi chiede di accedere ai dati di tutte le persone che io conosco e che ho nella mia rubrica. Ad esempio, Paolo Corleone, tu sei iscritto a WhatsApp? No. Ecco, se WhatsApp io la installo nel mio telefono, naturalmente accede anche al dato relativo a Paolo Corleone, e il garante per la privacy giustamente vuol sapere che fine fanno quei dati. Today we can enjoy our favorite music, movies and TV shows anywhere, anytime. Allora, a proposito delle differenze tra Europa e Stati Uniti, quella che sentite è la presentazione del Copyright Alert System, il sistema di allerta sul diritto d'autore. Ascoltiamo alcune parole. Is designed to help consumers understand when files may have been shared illegally on peer-to-peer networks using their internet accounts. Allora, vengono citati le reti peer-to-peer. Allora, grazie ad un accordo tra l'industria dei contenuti e gli internet service provider, cioè quelli che ci forniscono la connettività a casa, cioè la DSL, eccetera, eccetera, le reti peer-to-peer vengono controllate, e quando si scopre che una canzone o un film viene scambiato illegalmente, viene inviato un avviso, un'allerta all'utente. Allora, stiamo parlando degli Stati Uniti, quindi questo è importante. Questo si chiama Copyright Alert System. Viene inviato un messaggio, ad esempio, del tipo: occhio che hai scaricato un file coperto dal diritto d'autore, non avevi il diritto di scambiare questo file. È un sistema di avvisi graduale. I primi sono solo semplici avvisi, semplici comunicazioni, poi si passa ad azioni educative, tipo vi viene imposto sul proprio computer di vedere un video che parla dei danni della pirateria, fino alla possibilità da parte del fornitore di connettività di ridurre la velocità del nostro collegamento. È una cosa che è partita proprio ieri, una novità per il mercato americano. Nulla di ciò esiste in Europa e al momento un'azione del genere non è possibile. In Europa controllare il collegamento ad internet è possibile solo su mandato di un magistrato, però questa è la tendenza. Ci sono stati vari tentativi per coinvolgere gli internet service provider nel controllo della rete internet per capire se un utente si scambia file illegalmente con un altro. Questo è un esempio appunto delle differenze tra il nostro ordinamento e quello americano. Digital News. Allora, questa settimana non ci sono tante notizie interessanti, ci sono tutte le settimane un sacco di notizie, ma noi selezioniamo quelle più interessanti. Allora, partiamo da alcuni numeri, alcuni dati. Quanti sono gli utenti italiani della rete internet? Secondo gli ultimi dati AudiWeb, a gennaio si sono collegati almeno una volta 29,6 milioni di utenti da computer, con una crescita del 7% in un anno. Stiamo parlando di più della metà della popolazione, perché se togliamo i piccoli piccoli e gli anziani che non vengono conteggiati in questa analisi, stiamo parlando di una base utenti di circa 54 milioni di persone. Quindi questi rilevati, cioè quelli che si collegano almeno una volta alla rete internet, sono quasi 30 milioni. Ma il dato più interessante forse è che nel giorno medio si sono collegati, quindi più assidui alla rete internet, si sono collegate in gennaio 14,7 milioni di utenti, con una crescita del 10%, quindi stiamo parlando di 15 milioni grosso modo di popolazione molto attiva sulla rete internet. Il tempo medio per persona sul web è di 1 ora e 28 minuti. Digital News. C'è un nuovo capitolo nella battaglia legale tra Apple e Samsung. Il giudice del tribunale di San Jose in California ha respinto la richiesta di Apple di aumentare il risarcimento danni riconosciuto in agosto dalla giuria, un processo molto famoso di cui abbiamo parlato molto. Ma non solo si è rifiutata di aumentare questa cifra, ma la cifra è stata quasi dimezzata e Samsung dovrà pagare solo 599 milioni di dollari contro il miliardo e oltre deciso lo scorso anno. In un altro processo che si è tenuto in Giappone a Tokyo, Samsung ha perso una causa contro Apple, accusata di aver utilizzato tecnologie 3G sull'iPhone. In America, in Europa e in Asia, in questi tre continenti, le due aziende si accusano a vicenda di avere violato la proprietà intellettuale. Abbiamo un'ultima notizia. Mentre si sta diffondendo la tecnologia 4G in tutto il mondo, e anche in Europa e anche in Italia, si parla già di 5G. I giapponesi di NTT Docomo, che è il principale operatore di telefonia mobile in Giappone, in collaborazione con il Tokyo Institute of Technology, hanno pubblicato i risultati di un esperimento realizzato a fine 2012 e, pensate, hanno raggiunto 10 gigabit al secondo in uplink su rete mobile. Sicuramente una velocità incredibile, ma ci dà un po' l'idea di qual è la tendenza. A proposito di reti LTE, nel mondo ci sono 65 milioni di connessioni attive su questa rete. Se ne è parlato questa settimana al Mobile World Congress. Molte di queste connessioni sono negli Stati Uniti e in Asia, dove forse ci sono le reti più sviluppate, ma lentamente, gradualmente si stanno sviluppando le reti anche in Europa e, come sapete, anche in Italia. Tre dei quattro operatori hanno lanciato offerte, quindi stiamo parlando di TIM, Vodafone e Tre. Manca Wind all'appello, quindi vedremo che cosa succederà nei prossimi mesi anche con questo operatore, ma comunque lentamente le cose stanno accadendo. Allora, nella seconda parte di 2024 ci trasferiremo, potremmo dire così, a Barcellona, dove ho realizzato questa settimana alcune interviste. Ci focalizzeremo su due interviste, una che parla del mondo dei terminali, di questo sta succedendo, sia a proposito di ecosistemi sui terminali, quindi sui telefonini e sui tablet, parleremo anche molto di sistemi operativi, e poi faremo il punto sul mondo degli operatori, molto interessante. Gli operatori sono sotto pressione perché tutti vogliono le reti più veloci, ma ci sono vari problemi. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. La seconda parte di 2024. In questa seconda parte del nostro programma parliamo del Mobile World Congress. Come sapete, ogni anno facciamo il punto sul mercato della telefonia mobile. Beh, per la verità lo facciamo quasi settimana dopo settimana, ma sicuramente questa, che è la più importante fiera mondiale del settore, ci dà una buona occasione, anche perché lì si possono incontrare persone che magari in altre occasioni o ascoltiamo al telefono oppure non riusciamo a raggiungere facilmente. Allora, sicuramente il Mobile World Congress è ancora oggi il più importante, il più frequentato tra gli appuntamenti dedicati al mondo della mobilità. Mondo della mobilità che si sta estendendo sempre di più, perché oramai è tutt'uno con internet, e quindi le cose diventano sempre più complicate. Devo dire che in questa fiera ci sono anche stand di operatori che fino a qualche anno fa non esistevano. Ad esempio, ne cito uno tra i tanti, ci sono i produttori di automobili, perché le automobili saranno sempre più connesse alla rete internet, e anche gli operatori e anche i produttori di automobili sono interessati a tutto quello che succede nel mondo della mobilità. Barcellona rimarrà fino al 2018 almeno la capitale mondiale della telefonia mobile, e da questo punto di vista devo dire che abbiamo perso una bella gara, perché almeno un paio di anni fa l'associazione che raggruppa 800 operatori mobili nel mondo, la GSMA, e più tardi ascolteremo anche il presidente Franco Bernabé, aveva messo a gara alcune città per decidere dove questa fiera sarebbe stata fatta. Beh, ha vinto Barcellona, che si è attrezzata con molti servizi, e quindi fino al 2018 rimarrà e sarà la capitale mondiale della telefonia mobile, in un mondo che si sta sempre più allargando, perché se ci pensate molte delle novità in tema di software stanno arrivando e sono arrivate dagli Stati Uniti. E in termini sia produttivi ma anche come numeri, l'Asia sta diventando un gigante anche in questo mercato. Ma dicevo, siamo stati a Barcellona, abbiamo incontrato Carolina Milanese, adesso vi facciamo sentire questa interessante intervista. Siamo al Mobile World Congress, sempre un'edizione molto interessante, tra l'altro quest'anno in una fiera rinnovata, quindi sembra quasi che la fiera si sia rinnovata. Siamo con Carolina Milanesi, vicepresidente analista di Gartner, bentornata a 2024. Sempre un piacere. Carolina, quest'anno abbiamo sicuramente visto molti annunci e si sta parlando molto al Mobile Congress di sistemi operativi, che forse è uno dei temi degli ultimi mesi. Sono stati fatti alcuni annunci, giusto per far capire ai nostri ascoltatori, noi oggi stiamo vivendo nel settore degli smartphone un duopolio fatto sostanzialmente da Apple con iOS e da Google con Android e tutti i produttori che offrono questo servizio. Cosa sta succedendo a parte questi due sistemi operativi? Sì, diciamo che nell'ultimo anno c'è sempre stata l'attenzione a chi sarà il terzo sistema operativo, no? La lotta era tra Windows e BlackBerry, e abbiamo visto l'annuncio di BlackBerry poche settimane fa a New York e anche in altre città intorno al mondo, e poi quest'anno sono due anni dal momento in cui Nokia, proprio a Mobile World Congress, ha annunciato il movimento su Windows. Adesso però, negli ultimi diciamo sei mesi a questa parte, abbiamo visto una schiera di nuovi sistemi operativi che tutti sembrano arrivare a salvare l'utente e salvare l'operatore, e sono nomi come Firefox, spinto da Mozilla, come Ubuntu, come Yolla, come Tizen, che sono sistemi operativi aperti, sono sistemi operativi che si basano tanto su web e HTML5, e si mettono come alternativa di Android inizialmente nella fascia bassa, quindi per i consumatori più mass market, e poi però anche con l'aspirazione a diventare dei telefoni smartphone di fascia alta. Abbiamo visto l'annuncio di Sony, per esempio, che collaborerà con Mozilla e gli operatori mobili per questo tipo di telefono. Sì, Sony per il momento usa fortemente Android, ma tu hai detto una delle cose che questi sistemi operativi vogliono trasmettere al mercato è arriviamo noi per salvarvi da questo duopolio. Ma qual è il problema? Perché non va bene il duopolio? Beh, certo, non va mai bene in termini di mercato, ma ci sono altri problemi. Sì, per l'operatore diciamo hai due aziende che sono molto forti per diversi motivi e hai da una parte Apple che spinge dei costi non indifferenti per quanto riguarda i sussidi verso gli iPhone e dall'altra hai un Google che alla fine l'operatore non è ancora certo di quale sia la fine, no? Dove vogliono arrivare, qual è quando sono arrivati a dominare tutto quello che vogliono dominare e quindi c'è questa paura di che ruolo l'operatore poi andrà a vivere e hai visto molto l'operatore diventare sempre meno importante negli occhi dell'utente e la relazione che l'utente poi ha con l'operatore è la bolletta alla fine del mese. Quindi, se capisco bene, il rischio e quello che gli operatori da un lato, i produttori dall'altro è diventare dei meri fornitori di cose che hanno poco valore, cioè l'operatore fornisce la banda o comunque la connettività, ma poco di più, il produttore di terminali, dei telefoni, degli smartphone, produce hardware, ma la parte del valore sta nel sistema operativo che ha dietro un ecosistema. A proposito di questo, Apple e Google offrono non solo il sistema operativo, ma soprattutto un ecosistema, una serie di servizi e un'esperienza utente molto molto bella. Questi nuovi sistemi operativi che cosa offrono? Che cosa hanno da offrire? Anche di affascinante. La cosa su cui si puntano di più è il fatto di riuscire ad avere un sistema operativo che ha delle necessità inferiori perché sfruttano la parte web e quindi a livello di telefonino tu riesci ad avere un'esperienza senza dover avere un costo troppo alto di telefono, che quindi è meglio per l'utente ma meglio anche per l'operatore mobile che non deve quindi mettere troppo sussidio verso il telefono. Questo potrebbe dire che dal punto di vista dell'operatore mobile, invece di dare sussidio al telefono, magari incominciano a dare sussidio al servizio. Tanti utenti non hanno ancora lo smartphone, non perché lo smartphone costa tanto, perché se adesso guardiamo nel mondo non abbiamo bisogno di questi nuovi sistemi operativi per fare il telefonino smartphone di mass market. I prezzi sono già bassi, riusciamo ad avere degli smartphone che sono intorno ai 70 euro già adesso su Android, certamente non di venditori di fascia alta. Il problema per tanti utenti è il costo di mantenere uno smartphone, è quello che devono pagare ogni mese per avere la connessione ai dati e quindi se riusciamo magari a cambiare il business model e mettere il sussidio sul servizio invece che sul telefono, questo potrebbe aiutare. Tuttavia questi sistemi operativi si presentano anche con un ecosistema alle spalle o poco? No, si presentano senz'altro con un ecosistema alle spalle, diverso però. Era interessante ieri sentire la conferenza di ZTE con Telefonica, il rappresentante di Telefonica dire: noi vogliamo che il consumatore scelga il contenuto e poi scelga se quel contenuto lo vuole fruito tramite un'applicazione o un browser. L'esperienza è la stessa. Questo è carino sulla carta, ma poi in realtà secondo me non è così facile da trasmettere al consumatore e secondo me anche c'è il fatto che magari i consumatori hanno già scelto che vogliono le applicazioni native invece che il browser. Sì, una gara molto dura, giusto? Molto dura, senz'altro. Torneremo tra poco a Barcellona per parlare con Carolina Milanesi. Ed effettivamente la gara è molto dura perché dietro a Firefox in modo particolare c'è una fondazione, la Mozilla Foundation, e già l'idea della Mozilla Foundation, che è una fondazione senza fini di lucro, è una bella idea, quindi questo basterebbe per molti consumatori per scegliere quel sistema operativo. Però, come dicevamo, poi tutto attorno va costruito un'esperienza, un marchio, va costruito un ecosistema che ci fornisce i servizi e naturalmente va costruito anche un bel telefono. E per il momento quelli che abbiamo visto, che sono i primi prototipi con il sistema operativo di Firefox, non sono certamente non sono brutti telefoni, ma non sono paragonabili ai top di gamma. A proposito di Firefox come sistema operativo, ne abbiamo parlato con Jonathan Nightingale della Mozilla Foundation. Firefox OS is new in the sense that, you know, this is something we're bringing to the mobile. Appunto, ci ha detto, Firefox è nuovo e lo lanceremo sul primo telefono durante la prossima estate, ma in un certo senso esiste già da tempo perché è costruito sul web. Allora, vi faremo ascoltare l'intervista a Nightingale in una delle prossime puntate di 2024, visto che ci sono ancora settimane che ci dividono dall'arrivo di questo sistema operativo sui primi telefoni. Sostanzialmente la novità che Firefox sfrutta sono le nuove app che risiedono sul web e che danno un grande vantaggio soprattutto agli sviluppatori. Si costruisce un'app e questa va bene per tutte le piattaforme, a maggior ragione per Firefox, e soprattutto non c'è nulla da scaricare sul telefono, quindi anche stiamo parlando di un sistema che sì, certo, deve essere connesso alla rete, ma che è molto più leggero. Allora, ci sono una ventina di operatori telefonici che lanceranno i loro smartphone con Firefox, e tra questi c'è anche Telecom Italia, e quindi vedremo anche nel nostro paese un terminale marchiato TIM nei prossimi mesi con sistema operativo Firefox. Non è quindi, come alcuni hanno detto, un sistema operativo dedicato ai paesi in via di sviluppo, ma anche per la fascia medio-bassa del mercato in termini di prezzo nei paesi avanzati. Stiamo comunque parlando di telefoni che dovrebbero stare sulla fascia dei 100 euro. Verranno prodotti dalla cinese ZTE, ZTE, Alcatel, LG e forse anche in futuro dagli altri cinesi, quelli di Huawei. Di certo esiste, ed è anche un problema avvertito da buona parte dell'industria, un crescente problema di sicurezza, e in questo la quota di mercato del 70% che ha Android e l'apertura del mondo Android non è molto confortante. Quindi una buona parte delle motivazioni che spingono questi operatori a utilizzare altri sistemi operativi è anche sulla sicurezza, visto che Android non è certo un sistema operativo sicuro. Riprendiamo tra un minuto. 2024. A proposito di produttori, nonostante il World Mobile Congress sia nata come la fiera degli operatori, non so quanti di voi ricordano che, visto che 2024 va in onda dal 1999, da quando è nata Radio 24, nei primi anni di questa trasmissione parlavamo della fiera che si teneva a Cannes, il 3GSM, che non era World Congress, era una fiera dove c'erano gli operatori e qualche produttore. Invece le cose si sono un po' trasformate, un po' spostate, è diventata quasi, l'attenzione si è concentrata sui terminali mobili, sugli smartphone e i tablet. Allora, torniamo con Carolina Milanesi, partiamo dall'unico grande nome che non c'era, visto che spesso si parla anche al Consumer Electronics Show di Las Vegas, non c'era Apple, ma tutti parlavano di Apple. Allora, a proposito di Apple, possiamo aspettarci qualche cosa nelle prossime settimane? Ma adesso tengono un pochino tutti sulle punte dei piedi, come dicono in America, perché hanno iniziato a fare degli annunci fuori calendario, no? Eravamo abituati al febbraio, giugno, poi si sono spostati un po' verso marzo e invece ottobre. Io penso di sì, tra marzo e aprile dovremmo vedere qualcosa, magari dal punto di vista di iPad. Per l'iPhone forse un po' presto, dobbiamo arrivare più verso la fine dell'anno. Samsung non ha presentato nessun nuovo telefono, solo un tablet, ma potremmo dire uno dei tanti oramai, anche se un mini tablet. Come si sta comportando questa azienda? Samsung sta avendo molto successo da un punto di vista di marketing, hanno speso molti soldi ma hanno anche avuto un buon ritorno di investimento, si sono riusciti a posizionare come l'unica alternativa ad Apple nel mercato. Il 2012 è stato un buonissimo anno per loro, credo che il 2013 non sarà così semplice per loro. Vedo della possibilità in Sony, della possibilità in Nokia, quantomeno a rappresentare un'alternativa sia per l'operatore che per l'utente, e quindi magari Samsung dovrà lavorare un pochino di più che nel 2012. Visto che siamo in Corea, parliamo di LG, che sicuramente non ha avuto il successo di Samsung, ma come vedi questa azienda? LG è interessante perché secondo me non hanno ancora ben capito che ruolo vogliono giocare nel mondo della mobilità. Hanno puntato tanto su LTE, però in Europa sappiamo che per LTE il 4G stiamo ancora aspettando, dipende molto da paese a paese e soprattutto per il consumatore non c'è questo valore evidente, no, della tecnologia, quindi poco propensi a favorire un venditore che si punta solo su quello. E ieri hanno fatto questa mossa di acquistare WebOS, parlando di sistemi operativi, è un sistema operativo che ci ricordiamo era di Palm, poi è stato acquistato da HP, non sono riusciti a sfondare nel mondo della mobilità e adesso LG se l'è comprato per fare le smart TV. Quindi mi sembra ancora un'azienda un pochino confusa su dove vogliono arrivare. Giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori, a proposito di quote di mercato, stiamo parlando di tra Samsung, che è il più grande produttore di telefonini nel mondo, e LG invece? LG siamo nel numero 5, hanno perso, loro erano il terzo, diciamo, venditore che si vedeva di più, invece la quota di mercato alla fine del 2012, il terzo posto è andato a Huawei. Nokia, l'unico grande brand europeo, numero 2 al mondo, comunque insomma ancora un'azienda gigante tra i giganti della telefonia, che come si sta comportando? Qui a Barcellona ha presentato alcuni prodotti. Sì, ha continuato a, diciamo, riempire il portafoglio dei prodotti, che è una cosa che devono fare al momento per assicurarsi di riuscire ad arrivare a tutti i prezzi e convincere magari un attimino l'utente che è ancora un po' scettico sulla possibilità di Windows Phone, non tanto Nokia, perché i telefoni si possono vedere, toccare con mano, la qualità senz'altro c'è, ma questa idea che Android è così forte, per un consumatore solo l'idea di contemplare qualcosa che è diverso, è difficile al momento. Però secondo me è stato interessante vedere la differenza, parlando con gli addetti ai lavori, ma anche con la stampa, c'è molta più positività quest'anno rispetto all'anno scorso. L'anno scorso lo scetticismo era molto più alto per Nokia, adesso secondo me la gente incomincia a vedere i risultati dei telefoni, vediamo adesso con le vendite. Abbiamo citato Nokia, allora citiamo brevemente di nuovo i sistemi operativi, stiamo parlando dell'unico grande nome che sta spingendo Windows Phone. C'è chi dice, anche in questo caso parlando con gli addetti ai lavori, con molti colleghi, anche insomma persone dell'industria, che Windows Phone a livello di interfaccia utente sia meglio anche in termini di sicurezza di Android, che però ha ancora una quota di mercato incredibile. Come la vedete, posto che iOS rimane numero uno in assoluto? Senz'altro da un punto di vista di sicurezza Microsoft ha fatto molto e sono diventati adesso diciamo il sistema operativo che le aziende guardano come alternativa a RIM, perché iOS c'è già nell'enterprise, quindi le aziende hanno già una presenza molto per BYOD, quindi portati il tuo device al lavoro invece di avere il device scelto per te dal tuo utente. Però lo diciamo, BYOD negli Stati Uniti è un mega trend di cui si parla molto, noi non abbiamo ancora affrontato ma dovremmo farlo, bring your own device, cioè porta il tuo terminale, il tuo telefono al lavoro, anche vale anche per i tablet, per i computer, che rientra nel famoso tema della consumerizzazione, cioè io esatto. Utilizzo a casa un prodotto e poi lo voglio utilizzare anche al lavoro e questo crea dei problemi perché poi insomma un conto è un sistema dell'industria, enterprise, anch'io sono un po' contagiato dai termini americani, questo comunque è un tema molto interessante, quindi tu dici molte aziende guardano con attenzione come alternativa a BlackBerry. Sì, come alternativa a BlackBerry per quello che è il device che ti viene dato dal tuo ufficio di IT e anche perché guardiamo poi alla possibilità di Windows più grande, quindi hai Windows Phone sul telefono, poi hai Windows sui tablet e sui PC e quindi la possibilità da un punto di vista di applicazioni che ti puoi fare di avere questa consistenza, no? di approccio ai devices. La parte, diciamo, dove secondo me Windows con Microsoft ha ancora lavoro da fare nel branding e nel far diventare questo sistema operativo, tu dicevi, per alcuni è migliore. Sai, dipende un pochino dalla preferenza personale, no? Android piace a quelli che vogliono smanettare, come diciamo in italiano, no? Il poter fare quello che vuoi con un sistema operativo che è molto flessibile in quel punto lì, però che poi ti dà problemi di sicurezza, perché è così facile riuscire a fare quello che vuoi, mentre magari una parte di Windows che è più settata, poi ovviamente vai a Apple dove invece fanno quello che vogliono, decidono loro prima, e tu hai poca possibilità come utente di cambiare quello che vuoi. Esatto, che per alcuni è anche un vantaggio, soprattutto per gli utenti che non vogliono smanettare, come dicevamo. Prima di parlare dei cinesi, parliamo degli americani. Motorola, dove è finita? Che cosa fa? Motorola sembra che sia stata ingolfata così da Google, e per adesso è interessante camminare lungo la hall ieri e vedere che al loro stand non c'era questo gran movimento che vedevamo negli altri stand, ma non perché come non abbiano i prodotti, secondo me c'è soltanto questa incertezza di che fine faranno, come verranno utilizzati da Google, e non abbiamo ancora ben capito. I cinesi, allora, sicuramente Huawei e ZTE sono i due brand più famosi, giusto? Sì, senz'altro. E poi hai Lenovo, che sembra che stia diventando questo nuovo nome. Ecco, come si stanno comportando? Guarda, qui è stato secondo me molto interessante vedere la marcata differenza di maturità, se vuoi, di Huawei verso ZTE. Huawei ha avuto un evento domenica dove ha fatto vedere il nuovo Ascend P2, diciamo la nuova versione del primo telefono che hanno fatto a fascia alta l'anno scorso proprio qui a Mobile World Congress. Molto migliorato dal punto di vista del design, molto bello, molto paragonato a un telefono di fascia alta, con tutte le features che ci aspettiamo, ma dei prezzi molto molto competitivi. Parli di un telefono che a livello di features può essere simile a un HTC One piuttosto che un Galaxy S3, ma costa quasi la metà. ZTE è ancora un venditore molto molto cinese. Hanno fatto ieri la loro press conference parlando della relazione con Mozilla in cinese. E secondo me hai detto quasi tutto. Sì, secondo me sì, perché è difficile riuscire a posizionarti come brand internazionale quando c'è ancora molta difficoltà proprio di esposizione e di capire quello che il mondo vuole, ma anche quello che loro vogliono comunicare al mondo. Bene, grazie a Carolina Milanesi, buon viaggio di ritorno verso gli Stati Uniti. A presto. Ora, naturalmente potevamo citare anche altri marchi, ci siamo concentrati su quelli che vendono di più. Non abbiamo parlato di BlackBerry, perché ne abbiamo parlato ampiamente nelle ultime settimane. Abbiamo parlato del nuovo BlackBerry 10, del nuovo sistema operativo e anche dello Z10. Non abbiamo parlato di HTC, che ha presentato un paio di settimane fa il nuovo One. Per HTC il 2012 non è stato un anno brillantissimo. E non abbiamo parlato nemmeno di Acer, che punta molto sul Padfone, sul Phone Pad, che è l'ultimo tablet presentato. Abbiamo parlato brevemente di Samsung, che, come dicevo, ha presentato un tablet, ma anche Samsung ha deciso di fare come fa soprattutto Apple, cioè che non partecipa a questi eventi, alle grandi fiere internazionali, ma presenta i prodotti e fa solo eventi in solitaria. Allora, Samsung presenterà il nuovo Galaxy, il Galaxy 4, il 14 marzo. I giornalisti sono stati appunto convocati per il 14 marzo. Visto che stiamo parlando di terminali, una risposta a Matteo, che ci scrive un SMS al 349-238-6666. È interessante perché cita Nokia e un marchio che è stato di Nokia fino allo scorso anno, che era Vertu. A parte che di Vertu penso che abbiano venduto poche migliaia di pezzi, perché è una linea di telefoni, di smartphone di lusso che costano un sacco di soldi. E Matteo ci scrive: ma perché Nokia utilizza Windows 8 sui telefoni e invece Vertu è passata ad Android? Beh, perché Vertu è stata venduta a un fondo del Nord Europa che è specializzato in nel mondo del lusso, e quindi hanno scelto di utilizzare un sistema operativo che già esiste come Android. Ci fermiamo per alcuni minuti, poi riprenderemo con il punto di vista degli operatori, visto che il Mobile World Congress è la fiera nata per gli operatori di telefonia mobile. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Riprendiamo puntata dedicata al World Mobile Congress, ma soprattutto alla situazione sia per quanto riguarda i terminali sia per quanto riguarda gli operatori mobili, per darvi un quadro di questo mercato. È importante ogni tanto anche allargare lo sguardo a quello che succede al di là dei nostri confini, ed è per questo che abbiamo incontrato Franco Bernabè, che è il presidente di Telecom Italia, ma soprattutto nella sua veste di presidente della GSMA, cioè l'associazione industriale che raggruppa, pensate, 800 operatori di telefonia mobile in tutto il pianeta, quindi l'associazione GSM, ho anche detto a Bernabè se non hanno intenzione di cambiare nome, magari chiamandola Mobile Association, ma mi ha detto che non è un tema perché ormai è famosa e nota nel mondo come GSMA. Allora ascoltiamoci insieme questa intervista interessante per capire il punto di vista di questa industria, che si continua un po' a lamentare della propria posizione. Soprattutto il grande tema, ma questo è un tema che va avanti un po' da molto tempo anche per quanto riguarda gli operatori di telefonia fissa, si lamenta degli over the top, cioè i famosi operatori della rete internet che con pochi investimenti, poi naturalmente negli ultimi anni questi operatori sono diventati giganti, quindi gli investimenti li devono fare, ma sicuramente è molto più facile installare, creare un'azienda che nasce sul web piuttosto che un operatore di telecomunicazioni che già dal primo miglio deve fare degli investimenti per mettere cavi, antenne e apparati in tutto il paese, poi in tutto il pianeta. GSMA prima di tutto non è solo un'associazione industriale, è l'organizzazione che ha creato il GSM, che ha creato quindi la telefonia mobile a livello mondiale, perché originariamente c'erano delle tecnologie che competevano, e quindi se questa competizione fra tecnologie fosse risultata prevalente, oggi non avremmo la possibilità di avere una telefonia interoperabile a livello mondiale. Oggi in qualsiasi parte del mondo uno vada, può telefonare, può avere lo stesso tipo di servizi, può avere la stessa tipo di qualità. Quindi la GSMA ha avuto un ruolo straordinario nel creare un mercato unico a livello mondiale per la telefonia mobile, e questo è il motivo per cui oggi ci sono 7 miliardi di connessioni. Di queste 7 miliardi di connessioni, quasi la metà sono connessioni che sono connessioni, diciamo, riferite a una persona, quindi ci sono circa 3 miliardi e mezzo di persone che hanno delle connessioni. Lo sviluppo va verso la banda larga, quindi si passa da una telefonia che è fatta semplicemente per l'uso della voce a una telefonia mobile che viene usata prevalentemente per il traffico dati. Ovviamente il traffico dati porta con sé servizi di tutti i tipi, compreso ovviamente il servizio della voce. Però viene realizzata una rivoluzione straordinaria che mette a disposizione della popolazione mondiale internet, internet in mobilità, con tutta la potenzialità che internet può esprimere. Per fare questo ovviamente ci vogliono degli investimenti colossali. Questa è un'industria che spende circa 200 miliardi l'anno di investimenti, e che in prospettiva ne spenderà ancora di più. È un'industria che dà da lavorare a 10 milioni di persone, quindi è una parte importante dell'economia mondiale in termini di occupazione, in termini di investimenti e in termini di benefici per i consumatori. Poi parleremo di tecnologia e delle priorità anche di questa industria, ma vi faccio capire, noi siamo a Barcellona, la GSM Association ha sede in Europa, lei è italiano. Fino a qualche tempo fa buona parte di questo mondo funzionava molto bene, soprattutto in Europa. Oggi le cose sono un po' cambiate. Potremmo dire che dal punto di vista software in questo ambiente molto viene dagli Stati Uniti, per quanto riguarda i numeri molto viene dall'Asia. Ci fa capire qual è anche il ruolo dell'Europa in questo settore? Beh, dunque, il ruolo dell'Europa è stato quello di standardizzare la tecnologia, è quello di promuovere l'industria a livello mondiale. Quindi devo dire che se c'è un merito che l'Europa ha avuto è certamente quello di aver creato il mercato della telefonia mobile a livello mondiale. Non a caso la GSMA è un'organizzazione che ha sede in Europa e dove gli europei sono ancora una parte molto importante, anche perché le grandi imprese mondiali di telecomunicazioni sono prevalentemente europee, salvo ovviamente i cinesi che oggi stanno avendo un ruolo fondamentale, perché imprese come China Mobile e China Unicom sono imprese che hanno centinaia e centinaia di milioni di clienti. Quindi direi che oggi certamente la divisione del lavoro a livello mondiale nell'ambito della telefonia mobile si è articolata. Noi abbiamo la manifattura che si è spostata verso la Cina. La Cina produce una buona parte dei terminali mobili, dei telefonini. Il design e alcune funzionalità sono disegnate negli Stati Uniti, perché il mondo delle applicazioni di internet è un mondo che si è sviluppato molto negli Stati Uniti. Ci sono altri paesi come la Corea che hanno un ruolo molto importante. L'Europa oggettivamente ha avuto, diciamo, in questa fase di transizione il problema di identificare quale possa essere il suo ruolo. In Europa ci sono tanti motivi per i quali la telefonia mobile non ha potuto esprimere quel potenziale di innovazione, di crescita che invece in altre parti del mondo sta esprimendo o ha espresso, anche se poi non è vero che questo potenziale di innovazione si è spostato verso gli Stati Uniti e verso la Cina. L'ingegneria, per esempio, di molti device mobili risiede in aziende europee, tra l'altro anche in aziende italiane. ST Microelectronics è un'azienda italo-francese ed è un'azienda leader nel costruire il cuore della telefonia mobile, che sono i chipset per il mobile e in più i chipset che servono per far lavorare il telefonino con tutte le funzionalità che il telefonino deve avere. Quindi direi che è abbastanza equilibrato. Certo, tenuto conto del ruolo storico, l'Europa potrebbe fare molto di più, cioè avendo inventato la telefonia mobile il ruolo dell'Europa potrebbe essere ancora più importante, però è chiaro che il mondo cresce, il mondo diventa più grande e quindi deve esserci un posto, un ruolo per tutti quanti. Direi che oggi la situazione a livello mondiale è abbastanza equilibrata. Non a caso quello che abbiamo cercato di fare alla GSMA è quella di rendere questa visibilità del resto del mondo più importante. Il consiglio d'amministrazione della GSMA è fatto dai capi delle più grandi imprese mondiali. Abbiamo il capo di Telstra australiana, abbiamo i due capi delle due grandi imprese cinesi, le due grandi imprese coreane, i giapponesi, oltre ovviamente agli europei e agli americani. Quindi è ben rappresentato tutto il mondo. Forse è l'unico settore che ha una così grande omogeneità a livello mondiale e così grande partecipazione da parte di tutti gli operatori. Lei ci ha parlato degli investimenti e questa è una delle vostre priorità. Le altre riguardano le frequenze. Lo scorso anno si parlava anche di traffico e di reti fortemente congestionate. Non so se questo è ancora un tema di quest'anno. Quali sono le vostre priorità? Ma direi che gli investimenti sono la priorità principale, perché il traffico cresce a ritmi di circa 60-70% l'anno a livello internazionale. Noi avremo al 2017 circa 10 exabyte di traffico e quindi una quantità veramente notevolissima rispetto a un exabyte che è il traffico di oggi sulle reti. Per sostenere questo traffico con la funzionalità che il sistema deve avere c'è bisogno di realizzare infrastrutture, di avere spettro disponibile. Lo spettro ovviamente è stato dato dai governi attraverso le aste, che tra l'altro sono costate moltissimo agli operatori e che tra l'altro sono state disomogenee, nel senso che sono state messe in aste bande di frequenza diverse che determinano una difficoltà nel rendere compatibili i vari telefoni nelle varie aree del mondo. Io credo che nei prossimi 2-3 anni molto si trova a fare a livello di hardware e di software per rendere compatibile il trasferimento LTE, cioè la rete di nuova generazione, su tutte le bande di frequenza e su tutti i canali che sono in questo momento attivi per la telefonia per la nuova generazione di telefonia mobile. Intende dire che voi chiedete ai governi in tutto il mondo di mettersi d'accordo, ma anche avere più frequenze disponibili, quindi prendere frequenze da altri settori? Ma direi che da questo punto di vista, a parte che c'è a livello internazionale una sede dove questo viene definito, che è la World Radio Conference, che decide qual è la porzione di spettro che deve essere allocata ai diversi usi. Oggi a livello internazionale la porzione di spettro che è stata dedicata all'LTE, cioè alla quarta generazione di telefonia mobile, è la porzione di spettro che è stata che è residuata da quello che è stato il digital dividend delle frequenze della televisione, cioè la televisione è stata digitalizzata, attraverso la digitalizzazione si è risparmiata una quantità di canali molto, molto elevata, e questi canali sono stati messi a disposizione della telefonia mobile. È chiaro che noi a livello internazionale abbiamo il problema che non sono sempre gli stessi canali che sono stati messi a disposizione, e quindi il terminale che deve operare su canali diversi ovviamente ha dei problemi, anche perché le politiche di spettro dei diversi paesi sono diverse. Quindi certamente questo ha portato a un problema, ma è un problema che verrà in prospettiva risolto, cioè la telefonia di quarta generazione funzionerà e interfaccerà a livello mondiale esattamente come la telefonia di seconda e di terza generazione. Voi parlate tra le priorità anche di privacy, perché la nostra vita diventa sempre più digitale, quindi voi siete preoccupati e interessati a far qualcosa in questo ambito. Che cosa? No, noi siamo dell'opinione che quello che sta avvenendo adesso, soprattutto nel mondo di internet, non è pienamente percepito nelle sue conseguenze. Noi abbiamo un mondo che oggi non tutela la privacy a livello dei grandi operatori di internet, perché i loro modelli di business sono basati sulla pubblicità comportamentale, quindi sono basati sulla possibilità di conoscere bene le tue abitudini, quello che fai, come fai, che cosa vedi, che cosa ti piace. E questo è veramente invasivo, tenuto conto che ognuno di noi ha diversi attrezzi elettronici che porta con sé e che quindi esaminano in dettaglio il tuo comportamento. Uno deve avere anche la garanzia che questi dati che vengono raccolti sul comportamento di ognuno di noi siano dati tutelati e non siano, per esempio, utilizzati per fini impropri, utilizzati abusivamente, venduti ad altri che non hanno cura della tutela di questi dati. Questo è un mondo che è completamente diverso da quello della telefonia mobile. La telefonia mobile, prima di tutto, possiede uno strumento di autenticazione che è la SIM card. Attraverso la SIM card si sa con precisione chi utilizza un certo tipo di terminale e quindi l'identità è ben stabilita. Inoltre gli operatori di telefonia mobile hanno degli obblighi di legge di tutela dei dati estremamente severi, quindi garantiscono che questi dati vengano utilizzati esclusivamente per i fini per i quali devono essere utilizzati. E quindi il mondo di internet deve migrare più verso le caratteristiche di utilizzo della telefonia mobile piuttosto che verso le caratteristiche di utilizzo del mondo internet tradizionale, proprio perché i dati personali sono preziosi e devono essere veramente tutelati. Molto difficile che questo accada. Assolutamente no, cioè nella telefonia mobile noi spendiamo centinaia di milioni per i sistemi di sicurezza, per regolare gli accessi, per identificare chi accede ai dati personali, per tutelare le banche dati, per proteggerle dai virus. Quindi sono investimenti colossali che vengono fatti da noi, sono investimenti colossali che vengono fatti da tutti gli operatori e che però non vengono fatti dagli operatori internet. Quindi diciamo, chi mette i dati a disposizione di un operatore di telefonia mobile sa che i suoi dati sono tutelati. Chi utilizza degli applicativi diversi che arriva dal mondo internet non sa poi che fine faranno. No, dico difficile che accada, perché comunque soprattutto gli Stati Uniti, insomma, tengono molto alle proprie industrie che funzionano almeno su internet così. Ecco, le industrie degli Stati Uniti funzionano così, funzionano con quel modello di business, funzionano grazie al fatto che negli Stati Uniti la privacy ha un livello di tutela completamente diverso rispetto all'Europa. Quindi bisogna che i due standard di tutela della privacy si omogeneizzino nel futuro, e io penso che questo sia il compito delle autorità europee, sia l'autorità di tutela della privacy che le autorità politiche. E quindi io penso che la direzione nella quale si deve andare è quella, ed è una direzione che è fortemente, a mio modo di vedere, tutelante per i clienti. E questa era la voce di Franco Bernabè, presidente della GSMA, nonché di Telecom Italia, ma in questa veste l'abbiamo intervistata al Mobile World Congress in veste di presidente dell'Associazione Mondiale degli Operatori di Telefonia Mobile. Ascolteremo l'ultima risposta di Bernabè tra poco. Ribadisco che secondo noi sicuramente questo accordo auspicato tra Unione Europea e Stati Uniti, tra una visione del mondo fatta in un certo modo e una visione non dico opposta ma sicuramente diversa, così come l'abbiamo descritta anche nella prima parte della nostra trasmissione, è sicuramente molto molto complicata, e da qui poi a cascata ne discendono mille altri problemi, non ultimi quelli che riguardano la competizione tra le aziende, perché sicuramente se alcune cose sono permesse in un mercato, in una visione del mercato, e in un altro no, beh, da questo punto di vista le aziende possono risultare meno competitive. Problemi molto seri, ma è bene sapere quello che sta succedendo. Ci risentiamo tra un minuto. 2024. Riprendiamo, abbiamo parlato con Franco Bernabè del mercato, del settore mobile per quanto riguarda gli operatori, quindi naturalmente è la loro visione, poi in alcuni mercati e per alcune cose sono le autorità locali o le autorità internazionali, come ad esempio per quanto riguarda la gestione dello spettro e l'attribuzione delle frequenze per la telefonia mobile o per altri servizi che devono decidere. C'è sicuramente un tema molto importante che riguarda i prossimi anni, cioè trovare nuove frequenze che andranno, gioco forza, rubate e sottratte ad altri settori per aumentare i servizi internet in mobilità. Se ne sta parlando da tempo e sicuramente nei prossimi anni sapremo qualche cosa di più chiaro. Allora, chiudiamo con una buona notizia, perché abbiamo parlato con Bernabè anche di roaming, e in modo particolare di roaming dati, perché una delle esigenze, non solo per chi viaggia per turismo, ma soprattutto per chi viaggia per lavoro, è quella di connettersi ad internet anche quando si fa all'estero, senza il rischio di vedersi azzerata la bolletta telefonica. Allora, che cosa direbbe e qual è il loro parere, il parere degli operatori mobili e della GSMA Association, se l'Unione Europea dovesse ridurre ulteriormente, e questo accadrà secondo una roadmap che è già stata comunicata, ma addirittura azzerare il roaming? Ma intanto l'associazione non ha competenza e non ha voce in capitolo su prezzi, perché ovviamente la questione dei prezzi è una questione che riguarda le singole imprese e le decisioni delle singole imprese. Io credo che per quanto riguarda il roaming, intanto l'Unione Europea ha già fatto molto, perché ha stabilito un roaming cap che è diciamo fortemente migliorativo per i clienti rispetto al passato, e ha definito un percorso che porterà praticamente a una sostanziale omogeneizzazione delle tariffe europee nel medio-lungo periodo. Io credo che soprattutto per quanto riguarda il traffico dati c'è bisogno di un'accelerazione complessiva nella riduzione dei prezzi e quindi nell'accessibilità del traffico dati a livello internazionale per tutti quanti. Quindi io credo che le tariffe andranno scendendo nel corso dei prossimi anni, indipendentemente dall'attività che verrà fatta dall'Unione Europea, e comunque non c'è niente che noi da questo punto di vista chiediamo o pretendiamo. Quindi lei dice sarà il mercato che abbasserà i prezzi? Sarà il mercato che è il mercato che già sta abbassando i prezzi che li abbasserà ancora di più. Bene, chiudiamo questo capitolo dedicato agli operatori mobili. Sicuramente un altro tema su cui ci sono forti investimenti, una forte spinta, è quello delle tecnologie NFC. Sapete che oggi quasi tutti gli smartphone, tranne iPhone, sono dotati di chip NFC, che viene utilizzato per varie cose, non ultimo, ma alcuni dicono che non sarà, almeno nell'immediato, l'utilizzo maggiore che ne farà per i pagamenti in mobilità. Sicuramente a Barcellona abbiamo sperimentato una fiera che faceva largo uso di NFC. Ad esempio il badge, quindi il tesserino per entrare, è stato caricato su un telefono, sui telefoni abilitati con NFC, e uno poteva andare a appoggiare il telefono sul lettore e poteva passare tranquillamente. Quindi questo è ad esempio uno degli utilizzi che già in alcune aziende stanno pensando di fare per gli accessi, ma questo vale per tante altre cose. Ad esempio c'erano poster nella città, uno avvicinava il telefono ad un poster e appariva un messaggio, oppure veniva scatenato un collegamento ad internet. Questo è sicuramente uno dei temi, ne abbiamo parlato anche recentemente a 2024. Allora, visto che ci sono state le elezioni, si è chiusa la campagna elettorale, adesso vedremo che cosa succederà per il governo. Noi non abbiamo mai parlato di politica, naturalmente, anche perché il nostro non è un programma di politica, ma molte delle cose che devono succedere, che accadranno nei prossimi anni, hanno a che fare con decisioni politiche. Ad esempio cito la famosa agenda digitale, una serie di azioni combinate che devono essere decise dal governo. Naturalmente molte delle cose sono state già decise a livello europeo, ma poi i governi locali devono attuarle in ogni paese. Allora, non ne abbiamo più parlato, sicuramente nelle prossime settimane riprenderemo a parlare di questo tema, un tema molto importante, e tra i grandi temi c'è quello famoso della rete in banda larga in fibra ottica. Questo è un tema che è stato abbandonato per tutta la campagna elettorale, un grande tema molto importante, quindi cominceremo nelle prossime settimane a riparlarne. Vi accenno che la prossima settimana, martedì, ci sarà una riunione importante per quanto riguarda le interferenze tra il 4G, le frequenze 4G e la TV digitale terrestre. Abbiamo dedicato qualche settimana fa una puntata proprio al tema. Allora, la prossima settimana ci sarà una riunione importante, dovrebbe essere fatta la firma definitiva tra Ministero dello Sviluppo Economico, Fondazione Ugo Bordone, che è il braccio operativo da questo punto di vista, operatori di telefonia mobile. Quindi la prossima settimana dovremmo essere in grado di raccontarvi qualche dettaglio in più. Ringrazio Paolo Corleoni che si è occupato della parte tecnica, Valentina e Rosa che ci hanno aiutato nella puntata di oggi in regia e in redazione. È tutto per questa puntata, io sono Enrico Paglierini, potete scrivermi durante la settimana 2024@radio24.it, usare Facebook o Twitter. Noi ci risentiamo tra 7 giorni, sempre su Radio 24. 2024. 2024. 2024.